Buon pomeriggio a tutti e a tutte, le 14 in punto, giovedì 27 agosto del 2009, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Visionari. Su Radio Onda Rossa e ogni giovedì dalle 14 alle 15 si torna dopo 3 settimane di assenza, quindi appena 2 puntate. E quest'oggi si parlerà soprattutto della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia prossima, comincerà il 2. E anche con collegamenti con qualche visionario. Allora, un attimo di pazienza. Intanto, per tutte le informazioni che riguardano la trasmissione potete consultare il sito della radio, ossia ondarossa.info, e poi sul sito, dove potete ascoltare anche la radio in streaming cliccando su in diretta. E potete anche, tra l'altro, contattarci allo 06 49 17 50, oppure mandarci un fax 06 44 63 616, oppure sottoscrivere sul numero di conto corrente postale 61 80 40 01, da inviare a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma. Sul sito, sulla scaletta, troverete il link per riascoltare la puntata precedente, gli ospiti di questa settimana, le uscite di domani, venerdì 28 agosto, le uscite in sala, e poi i nostri suggerimenti per quanto riguarda i film già in programmazione a Roma e nel Lazio, e poi link per dare un'occhiata a news, interviste, recensioni, e poi i nostri suggerimenti ancora per quanto riguarda i film su piccolo schermo riguardo alla settimana televisiva. Proviamo subito con i collegamenti. A tra poco. Buon pomeriggio a Simonetta Grechi, ci sei? Sì, ci sono, ciao a tutti, buongiorno. Come stai? Bene, abbastanza, bene, mi sono leggermente ripresa dai 15 giorni. Ok, allora, direttrice della 7ª edizione del Clorofilla Film Festival, che quest'anno si è divisa in 2 parti, a Rispescia e poi a Grosseto, dal 7 al 23 agosto, 15 giorni. Intanto, come mai questa decisione di dividere in 2 il festival? Ma è un'esperienza che avevamo fatto anche 2 anni fa, tra il Parco di Pietra, sempre qui in provincia di Grosseto, sì, e Festa Ambiente. Niente, era andata bene 2 anni fa e abbiamo deciso di proseguire in questa esperienza che ci porta appunto al di fuori di Festa Ambiente, e quindi ci permette anche di intercettare pubblici diversi. Questo è, diciamo, il motivo per cui ci piace anche sperimentare al di là appunto del festival che da sempre ci ospita, cioè appunto Festa Ambiente. Allora, film di finzione, documentari, cortometraggi italiani dell'ultima stagione. In concorso per quanto riguarda i lungometraggi di finzione erano 10 titoli. Ti dico allora intanto come avete deciso per la scelta dei titoli. Abbiamo contattato diverse case di produzione, sì, e in base anche ai film che ci sono pervenuti abbiamo operato una selezione che ovviamente riguarda appunto film italiani che non hanno avuto una grande distribuzione e che quindi sembrava giusto proiettare per dare un'occasione di, certo, di visione in più. Certo. Allora, intanto diamo anche, visto che si tratta di un bilancio, quali sono stati i premi. Il premio consisteva sia in una scultura artigianale che in un premio di 500 euro che andavano devoluti ad una ONG. Sì, sì, praticamente sì, sono stati premiati domenica scorsa i vincitori. Tra i film ha vinto Fuga dal call center di Federico Rizzo, che è stato anche nostro Leonardo ospite. Come? Che è stato anche nostro ospite qui in radio. Sì, sì, sì. Miglior attore Angelo Pisani, sempre per Fuga dal call center, mentre tra le attrici ha vinto Valentina Carnelutti per Sfiorarci. Sì. E poi c'è stato un doppio premio tra i corti, un corto che è L'amore è un gioco di Andrea Roveta e Be Water My Friend di Antonio Martino. Sì. Questi in totale, diciamo i premi. E i 500 euro, sì, ancora dobbiamo sapere a chi andranno. Noi abbiamo dato un'indicazione, cioè di come è possibile, poi ovviamente non ci sono assolutamente preclusioni, laddove possibile di devolvere almeno in parte in questo premio all'Accademia dell'Aquila, all'Accademia dell'Immagine dell'Aquila. Bene, bene. Che ha subito dei danni in seguito al terremoto, oppure appunto a associazioni no profit, a scelta ovviamente dei vincitori. Senti, quest'anno i soldi erano pochini, però voi comunque continuate a scommettere facendo un lavoro sul territorio che dura tutto l'anno al di là del festival. Com'è stata la risposta del pubblico? La risposta è stata molto buona, tanto che stasera riproietteremo Fuga dal call center a Grosseto, perché appunto Fuga dal call center era stato proiettato nell'ambito di Festa Ambiente. Sì. All'inizio, proprio uno dei primi giorni. Sì. E quindi abbiamo avuto questa richiesta e stasera appunto riproietteremo. Sì, sì, sì. Ma la risposta è stata buona, speriamo ovviamente di proseguire questo lavoro anche appunto durante l'inverno, come dicevi tu. Cerchiamo appunto di fare un lavoro sul territorio che non si limiti alla durata del festival, ma che ci permetta appunto di stabilire un contatto sempre più forte con la nostra città e non solo. Tra l'altro, dicevo a proposito di come organizzate il festival, questa scommessa del farlo proseguire durante tutto l'anno, voi collaborate anche con altri festival e con associazioni tramite cui anche avete contattato autori, siete riusciti a portare film, insomma raccontaci un po' di questa sinergia tra altri festival e voi. Sì, la prima che mi viene in mente è sicuramente con un altro festival che si svolge in provincia a Grosseto, che è Storie di Cinema, un festival dedicato alla sceneggiatura con cui collaboriamo ormai da anni, ma non solo. Cerchiamo di fare tesoro delle collaborazioni anche appunto con altri festival. È successo per il cinema, ma succede anche appunto per esempio per il teatro, perché è successo quest'anno che nell'ambito dei Tramonti dell'Uliveto noi avessimo individuato degli attori, degli spettacoli che passano spesso dal Rialto Sant'Ambrogio, e quindi diciamo si è creato questo ponte, forse virtuale, non lo so, con il Rialto, perché crediamo sia una realtà da non perdere, come invece purtroppo è successo pochi giorni prima dell'inizio del nostro festival, la chiusura anche dello spazio teatrale. Sì, sì, sì, sì. Quindi ecco, noi contiamo molto sulle collaborazioni con altre iniziative, perché spesso avendo appunto un budget molto limitato certe collaborazioni ci permettono anche di realizzare delle proiezioni che a costi notevolmente ridotti. Certo, certo. Simonetta, per chi volesse saperne di più su di voi, c'è qualche indirizzo internet su cui convogliare? Sì. Sì, dunque il sito del festival è all'interno del sito di Festambiente, quindi basta digitare www.festambiente.it e la sezione dedicata al cinema, appunto il Clorofilla Film Festival. Altrimenti abbiamo anche un gruppo su Facebook, I Clorofillati, quindi chiunque voglia può iscriversi a questo gruppo per essere informati periodicamente sulle nostre attività. Bene, allora Simonetta, complimenti, grazie di essere stata qui e ci sentiamo grazie per le prossime novità. Grazie mille, a presto. Un abbraccio, ciao. Ciao. Simonetta Grechi, direttrice della 7ª edizione del Clorofilla Film Festival a Rispescia e Grosseto dal 7 al 23 agosto, per tracciare con lei un bilancio della manifestazione. Benvenuto Luigi Sardiello, regista del film Piede di Dio, eccoci qui. Grazie, ciao a tutti. Buon pomeriggio, come stai? Come sto? Un po' stanchino, catapultato in un mondo di telefonate, interviste eccetera, che insomma mi competeva ma dall'altra parte. No? Allora raccontiamo pure in breve qual era la tua attività qual è tuttora, no? Ci tengo a precisare che certo. Non mollo. Dunque, la mia attività prevalente è quella di direttore di Filmmakers Magazine, una sì. rivista di cinema. Sì. E quindi diciamo io. Che abbiamo già avuto ospite, tra l'altro. Sì, sì, mi sembra sì. proprio con te. Sì, sì. Mm-mm. E quindi ho sempre ruotato nel mondo del cinema, e insomma, oltre a scrivere di film ho anche scritto film, quindi insomma non è che fossi proprio nuovissimo alla regia, però insomma questa è la prima regia, insomma mm-hmm. ho fatto il salto. Allora raccontaci anche a questo punto il salto, che come, dunque, come l'hai pensato? Dunque ho la cosa la farò breve, però in realtà nasce ben 30 anni fa, a mia stessa insaputa, nel senso che 30 anni fa su una spiaggia del Salento io incontrai un ragazzo molto particolare, un ragazzo che rideva sempre e non sbagliava mai un calcio di rigore, secondo la leggenda del posto. E io non lo so se effettivamente lui non sbagliava mai un calcio di rigore, ma per noi era così. E noi pensavamo che avesse la nostra stessa età, 12-13 anni, in realtà lui aveva 18 anni, insomma, quindi aveva quello che i grandi un po' frettolosamente chiamano ritardo mentale. Sì. E io ho sempre pensato che lui segnasse i rigori e giocasse così bene proprio per questa sua peculiarità, no? Di ridere sempre. e di quindi non avere paure, sovrastrutture, eccetera. A questo punto facciamo un salto in avanti di 30 anni, siamo nel 2006, Calciopoli, quindi insomma tutte le contraddizioni del sistema italiano. Che è citata tutto nel film, tra l'altro. Sì, sì, perché ad un certo punto io ho pensato questo: che cosa sarebbe successo se nell'Italia di questi anni, del 2006, un osservatore fosse venuto a prendere questo ragazzo e si fosse messo in testa di farne un campione. Quindi da lì mi è venuta l'idea di prima di scrivere questa storia, ci ho lavorato sopra e insomma, e poi questa storia è diventata un film che ho anche diretto, oltre ad aver scritto. Senti, come ti sei mosso per esempio lavorare sulla scrittura, trovare una produzione, pensare a una distribuzione poi in sala del film? Beh, come puoi immaginare, con una fatica enorme. ho fatto, diciamo, una trafila classica da neofita, cioè sono andato con la mia sceneggiatura sotto il braccio da produttore in produttore, con il vantaggio che, essendo direttore di una rivista di cinema, mi conoscevano e quindi quantomeno no, mi dicevano te la leggerò. Detto questo, ho trovato un primo produttore che si è appassionato del film, che insomma è una persona che voi conoscete bene, che è Gianluca Arcopinto. Sì. Insomma, malato oltre che di cinema, di calcio. e poi insomma Gianluca mi ha detto lui stesso che non aveva la forza produttiva per portarlo avanti, e ho trovato un altro malato di cinema e di calcio, che è Enzo Porcelli, che ha accettato di produrlo con la sua Cab Film. Mm-hmm. A quel punto passa tanto altro tempo, riusciamo ad avere un finanziamento ministeriale, ovviamente un finanziamento non adeguato, diciamo, al budget richiesto dal film, tanti sacrifici di tutti quanti, riusciamo a fare il film e poi che succede? Che provi a cercare una distribuzione e nessuno te lo vede il film, cioè nessuno, ma non è che ti dicono sì, vabbè, adesso te lo vedo nel film, e poi dicono no, non ci interessa, cioè proprio un disinteresse assoluto, oppure condizioni che non erano, diciamo, soddisfacenti, più da service distributivo, no? Che da distribuzione vera e propria. Allora, a quel punto, visto che l'unica, diciamo, una delle cose migliori dell'esperienza di Filmmakers Magazine che porto con me, quella che non bisogna abbassare la testa di fronte a nessuno, abbiamo detto ce lo distribuiamo noi. Oh. E quindi abbiamo fatto questa partnership, la produzione del film, la ACAB Film e la mia società, la società di Filmmakers Magazine, che si chiama Bunker Lab, e quindi abbiamo iniziato noi un'avventura distributiva, cioè prendendo contatti uno a uno con tutti gli esercenti e siamo arrivati a qui. Senti, e domani come si attuerà questa strategia distributiva autogestita, diciamo così? Guarda, la strategia di distributiva si è attuata con tante mail, grandi... Intanto in quante copie uscirai? Dunque, usciremo in 25 copie. 25 quindi, copie, che insomma mi sembra dignitosissimo. Sì, sì, anche perché devo dire una prima cosa bella è che rispetto alle copie che inizialmente avevamo pensato di fare, che erano un po' di meno, ci sono state poi delle prenotazioni, perché quando hanno visto il trailer del film alcuni esercenti hanno chiamato. C'è questo grosso richiamo dell'attore protagonista, che è Emilio Solfrizzi, giù in Puglia, e quindi in Puglia usciremo con 10 copie. Mm-hmm. E quindi insomma molto, molto tam tam, e anche la fortuna di aver fatto una conferenza stampa con un po' di, diciamo, di persone che si sono poi appassionate al film, per cui ho avuto, diciamo, due passaggi insperati al TG1 e al TG2, e conteremo su questo, sugli amici, sui miei lettori di Filmmaker, sui vostri ascoltatori, e vediamo che succede. Senti, qualche considerazione a questo punto su tu nel tuo film hai modo anche di parlare del calcio, di quello che è diventato, degli scandali che lo hanno riguardato e che tuttora lo riguardano. Che impressione ti sei fatta su questo grande giocattolo mangia soldi? Dunque, mi sono fatto l'impressione che il calcio sia veramente una lente di lettura della società italiana contemporanea. Sì. E cioè, insomma, tutto quello che sappiamo, veramente un disfacimento, no, dei valori essenziali, in cui tutto quello che riguarda un determinato ambito non viene preso in considerazione. Cioè nel giocattolo del calcio, come dici tu, il pallone, la magia del gioco è veramente l'ultima cosa che viene presa in considerazione da procuratori, ma anche da media, da piccoli, grandi affaristi, per le persone che gestiscono le società di calcio, cioè i ragazzi, perché la mia storia è ambientata nel mondo del calcio giovanile, i ragazzi sono veramente un'appendice, diciamo, un orpello, e soprattutto è un appendice come stanno loro e come si sentono loro mentre giocano, il che puoi immaginare, trattandosi di persone anche molto piccole, no, d'età 12, 13, 14 anni, è molto pericoloso per la loro crescita. Sì, anche riguardo alle grosse aspettative di cui vengono investiti dai familiari, dagli amici, da tutto l'ambiente che li circonda. Luigi, parlavamo, quando ti ho chiamato l'altro giorno mi dicevi che stavi guardando un'occhiata a tutti gli articoli, a tutta la rassegna stampa che ha riguardato la proiezione, l'anteprima del tuo film. Abbiamo parlato, hai citato prima i due telegiornali che ne hanno trasmesso un servizio. Come sono state le reazioni? Guarda, le reazioni direi mediamente molto buone, uh-huh, e soprattutto molto buone da persone delle quali io ho stima. E devo dire, sono molto contento, insomma, ci sono persone che hanno detto, insomma, delle cose che io perfino trovo eccessive, no? Filippo Laporta, che è un critico del quale ho grandissima stima, ha detto che è un film lieve e straziante, uh-huh, e, insomma, una cosa molto bella. E devo dire, le reazioni sono molto buone laddove hanno capito l'operazione che volevo fare io, che era un'operazione di lavoro sulla semplicità, mm-hmm, cioè io volevo veramente scavare, lavorare in sottrazione e concentrarmi su questi due personaggi. Poi ovviamente ci sono quelli a cui non è piaciuto, c'è uno che su internet mi ha fatto proprio un insulto personale, insomma, più che una recensione è una sequela di insulti. Io temo che questo sia deve essere un mio studente di scienze della comunicazione che ho bocciato, perché sennò tanto livore non si capisce. Va bene, senti, Luigi, allora in bocca al lupo, ci risentiamo prossimamente, chissà, per qualche altra novità. Benissimo. Va bene. Un saluto a Luigi Sardiello, regista di Piede di Dio, da domani in 25 copie in sala. Buon pomeriggio, caro, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Buon pomeriggio a Claudio Noce, regista di Good Morning Aman, ci sei? Buon pomeriggio a tutti. Come stai? Molto bene, grazie, un po' affaticato, però bene. Allora, gli ultimi accorgimenti prima dell'avventura veneziana all'interno della Settimana Internazionale della Critica, di cui sentiremo il delegato generale Francesco Di Pace tra poco. Claudio, allora, parlaci un po' del tuo film. Tanto complimenti, stamattina c'è stata l'anteprima stampa, te li do così in diretta. No, grazie, grazie, Federico. No, va bene, insomma, no, diciamo che l'iter del progetto, bisogna ritornare indietro di più o meno 3 anni, insomma, sì, quando, diciamo che 3 anni fa... fece un documentario, fra l'altro commissionato dalla CGIL per il centenario della CGIL, in cui erano stati coinvolti un po' di registi, insomma. Fra l'altro, ecco, poi fu quella un'occasione in cui in realtà trovai probabilmente gli elementi per iniziare un percorso che poi mi ha portato al mio primo lungometraggio. In quel caso loro mi avevano chiesto un ritratto, così lo chiamavano, sul lavoro. Mi era stata commissionata una cosa che a me non interessava, relativa ai mestieri scomparsi del cinema. In realtà io invece ho cercato di provare a imbastire un piccolo documentario, perché comunque si trattava di un documentario di 20 minuti sul lavoro legato all'immigrazione e agli immigrati. In quel caso trovai un'eccezione interessante, perché era una lavanderia a gettoni gestita da un immigrato del Bangladesh, quindi che era quasi, ce n'aveva due o tre in gestione, insomma mi sembrava un'eccezione interessante. E all'interno di quella lavanderia mi resi conto che comunque la lavanderia era un contenitore di storie molto più interessanti, o comunque interessanti che in qualche modo mi attraevano di più. E in quell'occasione incontrai questo Aman, questo ragazzo di 18 anni somalo che mi vomitò la sua vita addosso, e da lì in realtà quel piccolo documentario prese una strada un po' diversa, nel senso che poi appunto anche proprio nel titolo si chiamò Aman e gli altri, e quindi Aman l'incontro con questo ragazzo e con la sua storia mi ispirò allora anche un cortometraggio, nel senso che da lì io ho iniziato un percorso che poi si sta chiudendo adesso nel lungometraggio. E fra il documentario e il film c'è stata una seconda tappa che è appunto Adile Yusuf, che andò anche in concorso a Venezia, che è un cortometraggio che raccontava e che racconta appunto una giornata di due fratelli somali. In quel cortometraggio in qualche modo c'era la voglia e il tentativo, in maniera più diretta, di raccontare quella che era la problematica delle seconde generazioni e il concetto di identità appunto che i vari ragazzi di seconda generazione hanno, appunto, quindi la ricerca della loro identità. In quel caso c'era appunto una visione molto diversa di questi due fratelli. E quindi in questa giornata in cui si incontravano su un trenino delle Ferrovie Laziali, un treno che fra l'altro io conosco molto bene, perché insomma avendo lavorato a Torbella Monaca, avendo fatto il servizio civile lì eccetera, era un treno che comunque negli anni l'avevo frequentato molto, e quindi il cortometraggio era ambientato lì. Arrivando al film, in qualche modo appunto dopo questi due passaggi, nel frattempo comunque avevo iniziato a scrivere il soggetto con Diego Ribone, Lisa Moruso e Aidan Schleff, e poi chiaramente il percorso e la costruzione produttiva, ovviamente non sono certo il primo, però insomma è stata molto faticosa e piena di insidie, e ci sono stati dei momenti in cui chiaramente ho pensato anche di mollare, e probabilmente in realtà quei pochi minuti che in tre anni ci ho pensato in realtà erano dettati dal fatto che comunque insomma un film dove fra l'altro appunto in principio, arrivando un po' poi nel dettaglio al film, c'era la voglia e l'esigenza di raccontare un film sì sull'immigrazione, sì sull'integrazione, ma attraverso un'originalità, quindi comunque una relazione fra due anime perse. Quindi in qualche modo il film ne diventò in quei momenti, prese dal punto di vista narrativo e drammaturgico, una linea più legata alla ricerca dell'identità, come problematica più trasversale, quindi anche legata a un uomo italiano, un quarantenne, che è interpretato appunto da Valerio Mastandrea, che chiaramente anch'esso, anch'egli è completamente perso alla ricerca di un'identità smarrita, e questo incontro con questo ragazzo, somalo di 18 anni, che fra l'altro era il protagonista dell'esperienza precedente di Adile Yusuf, uno dei due fratelli, e quindi la relazione fra queste due anime perse alla ricerca della loro identità. È un incontro che nasce su un terrazzo condominiale del quartiere Esquilino, e chiaramente in maniera anche molto astratta, anche molto simbolica, questi due personaggi si incontrano anche quasi come se avessero in qualche modo una telepatia, un filo conduttore, qualcosa che li unisce a prescindere dalla casualità, sì, del loro incontro. e quindi comunque c'era fin dall'inizio, e su questo insomma ci siamo proprio spaccati la testa, la voglia e l'esigenza, il tentativo di non fare un film sull'immigrazione e basta, ma provare a raccontare questa problematica attraverso un film sull'amicizia. Quindi in realtà poi appunto è un film sull'amicizia fra due personaggi molto lontani in partenza, che però in realtà hanno una serie di cose in comune, la sofferenza, appunto la solitudine, poi in realtà entrambi non dormono, quindi l'insonnia, e di fatto c'era appunto questa voglia di raccontarlo in questo modo, attraverso un percorso e un viaggio che per il ragazzo, che è il protagonista del film, che è Aman, è chiaramente c'è uno schema appunto da romanzo di formazione, cioè chiaramente Aman attraverso questo incontro e questo viaggio cresce, e alla fine del film per me diventa grande, diventa diciamo uomo, e anche attraverso una consapevolezza e un alla fine, anche se comunque il film apparentemente non ha una dichiarazione diciamo palesemente, cioè è un film chiaramente che ha degli aspetti sociali e politici, ma attraverso appunto dei simbolismi e delle cose, c'è una frase finale di Aman che è molto diciamo lampante e chiara da questo punto di vista, ed è una dichiarazione anche proprio non di resa ma di consapevolezza che probabilmente per lui in questo paese non c'è spazio, e quindi vuole andare a raggiungere il suo migliore amico, che all'inizio del film, fin si apre un abbandono, se ne scappa in Inghilterra. Claudio, più o meno. In che luoghi ti sei mosso della città, oltre all'Esquilino? Ma guarda, allora, chiaramente poi casualmente, ma chiaramente solo per una casualità, conosciamo tutti quali sono i meccanismi del cinema, anche l'interno della casa di Teodoro è a Piazza Vittorio, che nel senso che facendo i sopralluoghi, chiaramente siamo andati, io inizialmente ho detto ma quel tipo di casa che io mi sono sempre immaginato scrivendo il film, secondo me è una casa lì dell'Esquilino eccetera, poteva essere anche di San Giovanni o di qualsiasi, è un interno, quindi insomma, invece l'abbiamo trovata lì, quindi sì. Gli esterni sono quasi tutti fra Termini, Piazza Vittorio, comunque in generale il quartiere Esquilino, l'interno anche lì, e poi chiaro, c'è Corviale, nel senso che poi sì, appunto sì. Diciamo Aman gravita intorno alla stazione Termini, come chiaramente avendo conosciuto molti ragazzi della comunità somala che stazionano molto in questa via, c'è cioè una specie di Little Somalia che è via Milazzo, abitano tutti diciamo in varie periferie romane. Devo dire la verità che comunque raccontare quel luogo lì è stata anche una mia esigenza, nel senso che Aman vero abita a Torbella Monaca, quindi insomma, e tra l'altro io poi avevo già raccontato il quartiere di Torbella Monaca in un mio cortometraggio in aria, quindi insomma, quindi io in realtà ho immerso anche, cioè Aman l'ho fatto abitare a Corviale, e dove diciamo alla fine c'era appunto anche una voglia di provare a raccontare quella zona della città. E poi c'è, tu hai visto il film, c'è una piccola parte diciamo onirica eccetera che si svolge in uno spazio abbastanza, cioè in un luogo di montagna, una piccolissima parte del film, e lì quella addirittura l'abbiamo girata al confine con la Francia, perché sì. Poi in Piemonte sul Moncinisio, perché inizialmente doveva entrare nel progetto la Film Commission Torino, poi così non è stato, e comunque avevamo fatto già i sopralluoghi, siamo riusciti ad andare truppa ridotta lì, e ci siamo fatti prima di iniziare il film le settimane ufficiali, siamo andati in 12 persone lì su a 2300 metri a girare quelle due scene. Senti, allora, della comunità somala ci hai detto, invece come ti sei avvicinato al mondo della box? Ma guarda, in realtà la box è chiaramente molto sullo sfondo nel film, tu l'hai visto, ed è chiaramente, voglio dire, il personaggio di Teodoro incarna una romanità che comunque negli anni magari ho conosciuto, con la quale mi sono confrontato, e comunque diciamo che la box in un certo tipo di ambienti romani popolari è comunque molto presente, insomma, è comunque una cosa che, e quindi c'era diciamo chiaramente anche può essere uno stereotipo, è comunque diciamo un topos, un'icona della box nel cinema eccetera, l'idea era quella di raccontare un ex pugile in maniera in maniera, diciamo, appunto molto molto marginale. E quello che mi ha divertito, e comunque sono contento di come è uscito fuori, e quello che poi in realtà è intorno a questo, insomma, gli amici di Teodoro, e quindi quel mondo lì, che cioè quella scena che della cena che tu hai visto, che dove ci sono veramente ex pugili, e ci siamo noi siamo andati a fare dei sopralluoghi in varie palestre romane, e comunque abbiamo incontrato queste persone che hanno fatto questi piccoli ruoli. Uh-huh. Insomma, questo più o meno. Sì. Senti, ti volevo dire, ricordaci la data veneziana e poi l'uscita invece nelle sale. Certo, allora, la data veneziana è il 6 di settembre, poi ci sarà una replica la mattina, parte un'anteprima stampa il 5, il giorno prima. Sì. E poi in sala, a quanto pare, credo che sia abbastanza ufficiale, dovrebbe uscire il 30 ottobre, sì. Distribuito da Cinecittà Luce, credo Circuito Cinema, quindi le sale insomma solide appunto del Circuito Cinema. Ora, appunto, sicuramente inizialmente nelle grandi città, adesso poi non so, adesso bisognerà vedere quale sarà il riscontro, diciamo, a Venezia. Però insomma sì, più o meno appunto è questo. Fra l'altro poi mi faceva piacere ricordare che ci sarà a Venezia il 7 un incontro anche a Global Beach con Valerio, il protagonista, Anita, per presentare il film, insomma. Bene. Presentare, quindi sarà un incontro, un aperitivo, non so, anche là. E questo senti Claudio, prima dell'uscita nelle sale il 30 ottobre, chi volesse saperne di più, c'è un riferimento internet? Allora, un sito non esiste in questo momento, però chiaramente ci stavamo pensando, solo che poi in realtà appunto come spesso succede, il film sembra assurdo, ma ancora è stato in lavorazione fino a poche ore fa, nel senso che poi nei laboratori, la pellicola e tutto il resto. Sì. Quindi insomma credo e spero che dopo Venezia ci potrà essere appunto anche un riferimento in rete da questo punto di vista. Beh, sicuramente noi ci risentiremo in occasione dell'uscita in sala. Intanto in bocca al lupo. Crepi, grazie Federico, un abbraccio a tutti e a tutte. Ciao. Claudio Noce, regista del film Good Morning Amman. Andiamo avanti per parlare proprio di Venezia. Buon pomeriggio a Francesco Di Pace, delegato generale della 24esima edizione della Settimana Internazionale della Critica al Lido di Venezia dal 3 al 12 settembre. Benvenuto. Grazie a voi. Come stai? Bene, tutto bene. Allora, abbiamo sentito poc'anzi Claudio Noce per quanto riguarda Good Morning Amman, che tra l'altro è l'unico film italiano nella Settimana Internazionale della Critica. Parlaci un po' del panorama che ci attende. Allora, è un panorama, come sempre si spera, variegato, proveniente da più parti del mondo. Sì. Non è forse l'unico film italiano, Good Morning Amanda, ti devo correggere subito. Ah, bene, bene. Ma no, perché l'evento speciale, diciamo quello organizzato insieme a Giornata degli Autori, che è Videocracy, in effetti è opera di un regista italiano, che è Eric Gandini. Bene. Anche se lui si è trasferito in Svezia da quando aveva 18 anni e quindi il film batte bandiera svedese, però è un film di un regista italiano, un film che farà molto discutere, se ne è già parlato tanto. Sì. Un film sull'Italia degli ultimi 30 anni, sull'Italia berlusconiana, sull'Italia delle televisioni private, di come appunto la televisione abbia influito sulla coscienza degli italiani, di noi stessi. È un panorama vario, con una prevalenza di film provenienti dall'Europa, in particolare con ben 3 film provenienti dalla Svezia, 2 dei quali appunto fuori concorso. Il primo è Metropia, che è un film d'animazione di fantascienza molto interessante, e invece in concorso, nel concorso della settimana, abbiamo Una soluzione razionale di Jorgen Bergmark, che era lo sceneggiatore di Kitchen Stories. In più ci saranno 2 film iraniani, a testimonianza che il cinema da quelle parti è molto vivo e cerca di testimoniare anche tutto quello che sta succedendo in questi giorni in quel paese, sommosse, proteste, movimenti studenteschi che scendono in piazza, le donne che scendono in piazza, e sono 2 film molto interessanti che bisogna tenere d'occhio. E un film russo, anche questo una bella scoperta, un film slovacco di una regista donna, l'unica regista donna nella settimana, è un film francese con una grande star in una delle sue prove più convincenti, cioè Beatrice Dalle. Il film si chiama Domain. Mm-hmm. Francesco, ti ho interrotto, stavi continuando? No, vai. Ti volevo chiedere, come mai questa predominanza europea e svedese in particolare? Ma guarda, ti direi che è un caso, nel senso che, come al solito, noi guardiamo tutto quello che ci arriva, tutto quello che poi andiamo un po' a scovare in giro per quello che possiamo permetterci di fare, e ogni anno è una storia diversa. Non so perché quest'anno ci è arrivato meno dagli altri paesi del mondo. Sì, dimenticavo il film coreano, che è l'ultimo film in concorso della settimana. Dall'Oriente arriva sempre qualcosa, dall'America un po' meno e dall'America Latina ancora di meno. Non so perché, i motivi sono vari, probabilmente si risente anche un po' della crisi economica che c'è stata in tutto il mondo, e quindi per alcune nazionalità riuscire ad investire sui prodotti giovani, sui film d'esordio, forse è più complicato che in altri paesi, dove magari si riesce a farlo con una maggiore libertà e con una dose di rischio minore, probabilmente. Questo è avvenuto per l'Europa quest'anno, forse è un caso, forse no, staremo a vedere, insomma. Senti, una tua valutazione sul fermento artistico e tematico dei film che avete selezionato? Ma guarda, è sempre un po' difficile rintracciare delle linee di tendenza. Sì. Noi ci sforziamo ogni tanto, un po' anche per gioco, abbiamo quindi parlato di inquietudini, abbiamo parlato del tema dell'illusione, che è presente un po' in tutti i film, ma siamo consapevoli che si tratta anche un po' di un gioco un po' pretestuoso. Fatto sta che nel cinema degli esordi, quindi nei giovani registi, si ritrovano maggiormente quelle tematiche di appunto inquietudine generazionale, anche nei confronti di una realtà molto, molto difficile per un giovane da affrontare, e quindi è inevitabile che questi film siano maggiormente indirizzati verso questo tipo di tematiche qui, piuttosto che sulla commedia o sul racconto un po' più disteso, un po' più così, insomma. Quindi direi sì, inquietudini generazionali, situazioni di conflittualità non solo personale ma anche appunto ancorate nella realtà, come nel caso del film iraniano Terun, che è un film molto, molto dentro la realtà della città, della capitale iraniana, e fa vedere un'immagine della città piuttosto inedita, piuttosto dura, insomma, rispetto a quella che siamo abituati a vedere e a conoscere, insomma. Bene, Francesco, allora in bocca al lupo e a risentirci. Prendi. Prossimamente. Ok, grazie. Un abbraccio, ciao. Arrivederci. Francesco Di Pace, delegato generale della 24esima edizione della Settimana Internazionale della Critica al Lido di Venezia, dal 3 al 12 settembre. Andiamo oltre. Eccoci. Un abbraccio a te. Un abbraccio e bentornati e bentrovati e bentrovate a tutti. Allora, come va? Dopo 3 settimane di assenza si torna. Sì. Intanto tu sei stata a Locarno. Certo. Ma vogliamo dire qualcosa? In partenza per Venezia. Intanto su quello che si muove in sala in questo momento, cosa sta uscendo? Se hai visto qualcosa che vale la pena segnalare, e poi anche un accenno a Venezia, perché no? Sì, certo. Dunque, anzitutto vediamo un pochino che cosa sto riguardando la tua comunicazione, in modo da essere le uscite, ecco, le uscite di questo venerdì, di domani. Io posso segnalare la visione di Chéri, l'era glaciale 3 e Fa la cosa sbagliata di Wackness e basta. Mm-hmm. Dunque, un brutto film, un film positivo, buono, mediamente buono, un bel cartone animato, perché partiamo dalle cose brutte, anche se non è tanto necessario vedere, insomma, parlarne a lungo. Comunque The Wackness, Fa la cosa sbagliata, mi è sembrata un po' una perdita di tempo, io non mi sono per niente emozionata, non mi sono divertita, non mi è accaduto niente durante la visione, insomma. Non so se dovrei leggere la tua recensione su FilmUp, però insomma niente, l'ho trovato abbastanza inutile come film, anche con degli attori un po' sprecati. Mm-hmm. Poi Chéri è di Stephen Frears. Allora, intanto io sono una estimatrice di Stephen Frears, perché mi sembra sempre un regista che ricostruisce bene il passato, soprattutto alcuni momenti della storia, dei costumi, così, della cultura, no? È un grande, proprio rimette in scena dal 1700, fine 1800, insomma è sempre, secondo me è un bravo artigiano su queste cose e sui caratteri dell'epoca. Perché dico questo? Chéri, tratto dal romanzo omonimo di Colette, una scrittrice francese comunque morta nel corso del Novecento, se mi ricordo, ritrae una società parigina a cavallo del XIX e XX secolo, con Michelle Pfeiffer, che un pochino ritorna nelle vesti di un personaggio simile a quello che fu poi, stesso regista, situazioni abbastanza simili, ricorda, aiutami, dai, il famosissimo film Le relazioni pericolose, che fece 20 anni prima, sempre appunto Michelle Pfeiffer e coppia con Stephen Frears. Là lei era la vittima di un uomo, un donnaiolo, no? Interpretato da un grandissimo John Malkovich. Qui invece è lei che in un certo senso muove le fila, essendo più adulta, di un giovane che si chiama Chéri, di cui lei cura un po' l'educazione, l'emancipazione e l'educazione poi sessuale. Diventano amanti, rimangono amanti anche per un certo periodo, in maniera del tutto inaspettata, non erano quelle le intenzioni, ma la cosa appunto viene protratta nel tempo, la loro relazione. Il film è stato presentato in concorso a Berlino, e devo dire, io un po' perché amo il cinema di Frears, un po' perché mi piacciono molto i personaggi sempre interpretati da Michelle Pfeiffer, che trovo una donna di grande grazia, di grande talento e di una bellezza quasi intoccabile. Io l'ho intervistata, era seduta a fianco a me, non potevo credere che avesse 51 anni, beh, proprio incredibile. E quindi, sai, è un film che ti ipnotizza abbastanza, perché può anche non interessarti poi i cambiamenti poi è difficile che una persona non interessata alla cultura non interessi vedere come cambiano i tempi, anche, no? Perché siamo, il film finisce alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, ma è proprio bello vedere come riesce a rappresentare le relazioni, come vengono intessute le relazioni tra le persone, attraverso i cliché dell'epoca, tutte le censure, tutte le regole che vengono in parte rispettate e soprattutto infrante. Quindi io lo consiglio comunque, bene, molto di più per un pubblico femminile, però ecco, non è che si tratta di divisione dei sessi o dei generi, qua si tratta solo di gusti, certo, semplicemente. Certo. Anna, io a questo punto... Ice Age 3 va visto, io... perché è un pezzone in 3D, della serie dell'Ice Age della Fox, è simpaticissimo, personaggi sempre molto molto ben tratteggiati. Lo consiglio. Dimmi, scusami. No, proprio sull'era glaciale. Io sono uno di quei pochi probabilmente che non ha apprezzato l'era glaciale, a partire dal primo. Non ho visto il secondo e questo terzo l'ho trovato noioso. Abbastanza. Il vizio è sempre quello dei tuoi cartoni, l'animazione. Ma io no, l'ho trovato molto divertente perché cioè nel suo genere non è un cartone Pixar, quindi non è neanche Miyazaki, quindi voglio dire non siamo a quei livelli lì. No, non c'è quell'inventiva, l'ho trovato molto ripetitivo, sì. Tu adesso vedrai il nuovo, quello della Pixar che esce a ottobre. Ah, che bello. Up, l'hai già visto? No, però... Ah, ma è straordinario, vabbè. Sono rimasto sempre estremamente soddisfatto, a parte Cars, del lavoro della Pixar. Sì. Certo, quindi insomma io vabbè, comunque è un divertimento, però certo. Stupido, ecco, molto meglio di altri che sono usciti, non ai livelli di Coraline che invece è veramente bellissimo. L'ho perso. Senti Anna, a questo punto ti chiedo, facciamo un frullato, facciamo... Nel senso, tra i film che hai visto a Locarno e quello che già hai visto in anticipo a Venezia, cosa ci aspetta di buono sperando che arrivino nelle sale, insomma? Allora, dico subito che a Locarno sono passati diversi titoli italiani di spessore, come sempre accade, no? Perché insomma, tra la moltitudine c'è sempre qualche cosa che vale la pena vedere e qualche cosa anche ricordiamo che Locarno è un festival comunque ancora molto legato alla ricerca, alla sperimentazione, no? Un cinema che non è assolutamente di cassetta, se non quello in Piazza Grande. Ecco, io voglio segnalare un film che a me è piaciuto davvero tanto, che si chiama October Country, di due registi americani, Michael Palmieri e Donald Mosher. È una storia, è un'opera prima, incredibile, è una docu-fiction legata alla vicenda di una famiglia della provincia americana, quindi una provincia profondissima, ecco, quanto di peggio ci possa essere, molto profondamente disfunzionale, e il meccanismo di racconto del film procede per interviste dei vari membri della famiglia, ma anche più piccoli, bambini, così. È bello perché poi lavora sulla verità e sulla maschera, cioè quindi sulla... sul personaggio reale, sul personaggio che fa un personaggio diverso, perché si conclude Halloween, quindi c'è un bellissimo lavoro che secondo me promette, cioè se questi registi vanno avanti così possono raggiungere dei livelli tipo diciamo del miglior cinema indipendente americano, okay. Così anche prendi Amir Naderi, a me sto viene, che fa sempre queste opere a metà tra la finzione e la realtà. Poi ho visto, ecco, degli italiani, sicuramente segnalo i signori che tu hai intervistato la volta scorsa, prima che chiudesse la trasmissione. Il 6 agosto, quindi. No, forse non la volta scorsa, la volta ancora prima. Sì, sì. Tu hai intervistato i due, la coppia di sposi. Massimo D'Anolfi e Martina Parenti. Parenti, ecco, quello... loro non so se è il secondo, comunque un nuovo film che hanno portato a Locarno, ricordo I Promessi Sposi due anni fa, se non sbaglio due o tre anni fa, anche questo un lavoro molto interessante, si chiama Grandi Speranze e per la prima volta, per quanto mi riguarda, ho l'occasione di vedere raccontata la storia di tre giovani imprenditori italiani, figli anche di imprenditori di famiglia, quindi insomma persone che avevano già una strada spianata nel mondo dell'industria, partire per la Cina e avventurarsi in quello che è, diciamo, una neocolonizzazione industriale, no? Sì. Cioè un po' un procedimento inverso, perché noi abbiamo un'invasione da parte della Cina, noi tutto il mondo occidentale, ma questo non in senso critico ma in senso realistico. Ecco, gli italiani che prendono e vanno in Cina e fanno lavorare i cinesi su cose italiane, o comunque portano un certo tipo di esperienza italiana, ma apprendono dai cinesi la velocità con cui lavorano. Mm-hmm. E secondo me c'è, insomma, è molto bello vedere come loro anche rappresentano questi giovani un po' goffi, e anche nel loro essere così genuini, perché questo inglese maccheronico che professa uno di questi, no, giovani rampolli di famiglie bene dell'industria italiana in Cina, che si trova anche in difficoltà spesso. Quindi vabbè, io l'ho trovato bello, bene, questo lavoro, bene. E ho trovato, sto guardando un pochino, e poi il terzo film che mi sento di segnalare è Teheran senza permesso, sì, di una cineasta iraniana, che adesso non mi ricordo i nomi e cognomi, che girato col videofonino, e lei era andata, lei è iraniana ma vive a Parigi, è tornata in Iran appunto per fare questo esperimento, è riuscita a ritrarre la sua città di origine in una maniera un po' sicuramente originale per noi, ma anche diversa da come siamo abituati a vederci l'Iran raccontato dagli iraniani, no? Uh-huh. E, proprio alla vigilia dei grossi scontri, no, post-elettorali, insomma, fa anche molto pensare, fa anche prendere un certo tipo di visione, cioè, sicuramente fa riflettere. Da lì che io mi sono presa in causa, no? Dov'è il mio voto, il braccialettino che promuovo. E Venezia. Senti, Venezia a questo punto, però, siccome devo sentire ancora Gosetti, che era appena sceso dal battello, a questo punto noi comunque ci sentiremo anche dal Lido. Gli orari sono un po' malefici per quanto riguarda la trasmissione, perché purtroppo tu sai bene che ci sono le proiezioni, sì, siamo tutti molto, sì, molto presi. Però se non riusciamo a sentirci, sicuramente al ritorno ci sarà un grande Sì. Io devo dire una cosa, la devo dire subito, però dilla subito. Ci sarà un film, c'è un film che si chiama Videocracy, sì, e questa è la, mi sembra che Onda Rossa sia un po' una piattaforma giusta in cui dire questo, sì già l'ha citato tra l'altro Francesco Di Pace. Sì, beh, no, normale, anche perché è il caso che è a cavallo la settimana della critica alle giornate degli autori. Ecco, Videocracy, che io ho visto, di Eric Gandini, che è un bergamasco che vive in Svezia, è stato fatto dalla Svezia. Era, se Francesco ne ha già parlato, non ne voglio riparlare, però voglio dire questo: la notizia di adesso è che c'è una censura nella trasmissione del trailer sulle reti Rai, perché viene giudicato contro il governo. Ah. Vedi. E questa mi è stata data da l'informazione mi è stata data da fonti, vabbè, a parte che ho visto poi su internet, c'è una cosa di un quotidiano su internet, che è Repubblica, lo posso dire, censurato, però appunto diciamo che c'è un gran parlare, perché è gravissimo censurare il trailer di un film. E ci torneremo sopra sicuramente a Videocracy. Volevo dire questo perché è legato un po' a quello che succedeva in Iran, cioè pensiamo a dove stiamo andando. Male. Comunque, Anna, un abbraccio e ci sentiamo per la settimana prossima. Un saluto a tutti. Ciao. Proviamo a contattare Gosetti allora. Ci siamo, Giorgio Gosetti, delegato generale della sesta edizione delle giornate degli autori al Lido di Venezia dal 3 al 12 settembre, ben trovato. Ben trovati a voi. Tutto bene? In postazione. Sei già lì. Al Lido di Venezia, ulteriori ribassi, sconti, il libro in mostra, posti nelle camere, tutto a disposizione. Giorgio, allora, cominciamo con una panoramica sulle giornate degli autori. Una dozzina di film della selezione ufficiale, una serie di eventi, documentari, ritratti e iniziative, perfino con uno schermo sotto le stelle, per una ventina di titoli in totale. La Villa degli Autori, più che mai aperta a iniziative, manifestazioni, dibattiti, incontri, proposte, perché questo è un anno cruciale per gli autori italiani e per la cultura italiana, in rilancio sui problemi del Fondo Unico dello Spettacolo, dei tagli alla cultura e quant'altro. La promessa di fare continuità con il bellissimo lavoro condotto nelle ultime 3 edizioni da Fabio Ferzetti, e magari anche con il gusto del divertimento, della trasgressione, di un po' di sorpresa che dovrebbe caratterizzare questa edizione. Bene, allora, tra i titoli selezionati ci fai una carrellata anche rispetto alle cose che ti preme segnalare. Ah, rispetto non ad ve li infliggo tutti. No, chiaro. Allora, diciamo che cominciamo allegri il 3 settembre con una coppia di film, il film inaugurale che è realizzato a 4 mani fra Claude e Nathan Miller, si chiama Sono contento che mia madre sia viva, che è un bel grido di battaglia essendo un figlio che praticamente cerca di accopparla. Il secondo titolo della stessa giornata invece si chiama La scimmia, è un film svedese, in una giornata che alla mostra batterà molto i colori della bandiera svedese, e anche qui c'è un padre di famiglia che scopriremo lungo il percorso avere qualche problemino, quindi insomma siamo nelle gioie private della violenza familiare. Poi più avanti ci sarà bel cinema italiano, ne sono contento, lo dico con fierezza, all'interno di una mostra del cinema che ha del gran bel cinema italiano. Mm-hmm. Noi avremo il nostro portabandiera in Valerio Ialongo con uno strano film che è nato come documentario e è diventata una specie di sabola triste ma anche irresistibilmente comica, si chiama Di me cosa ne sai, e quel di me riguarda il cinema italiano di oggi. Poi sorprendente davvero da tutti i punti di vista ritratto Vittorio D, il mistero di Sica di Anna Rosa Mori, sì, e Mario Canale. Poi ancora un film su cui c'è molta attenzione, si chiama L'Orda, sono i primi zombies di stampo tipicamente europeo, anzi francese, che invadono il Lido, arriveranno 24 ore prima degli zombies americani di George Romero. Promettono di essere altrettanto affamati, altrettanto trasgressivi, altrettanto cattivi, ma cattivi sono anche gli umani che li fronteggiano, poliziotti o malviventi che siano. E poi le bellissime modelle Waris Dirie, grande modella somala degli anni 90, e Ilia Kebede, che sono ispiratrice e protagonista del film Desert Flower, che è un grande inno alla vita e alla resistenza femminile, le cattive ragazze, le vecchie ragazze di Ragazze la vita trema di Paola Sangiovanni, sono le ragazze che fecero il movimento in chiave al femminile degli anni 70, ce ne siamo quasi dimenticati, ma a metà del cielo allora parlava al femminile, non c'era solo il 68 dei maschi. E poi un'ultima cosa la dirò, sì, due film spagnoli veramente, sì, curiosi e sorprendenti. Uno si chiama Cella 211 e a mio parere è la più bella rivisitazione del genere carcerario, di quelli che piacevano a Burt Lancaster, Robert Mitchum nel vecchio cinema americano, tutto molto moderno, molto adrenalinico. E Gordos, ovvero Ciccioni, esilarante riflessione sull'obesità e la voglia di perdere peso della nostra società di oggi, all'interno di una specie di beauty farm reality su cui credo che il Lido si ignazzerà molto, ma si preoccuperà anche un tantino. Siamo chi più chi meno tutti sovrappeso. A Giorgio, facciamo anche una valutazione complessiva sui titoli che compongono le giornate degli autori. Che impressioni hai avuto? Lo abbiamo perso, proviamo a ricontattarlo. Ecco, siamo tornati in diretta. Giorgio, hai colto la domanda? La domanda era che genere di cinema e che impressione ci fa l'insieme del cartellone. Sì, sì, esatto, esatto. Dicevo che con grande orgoglio, tornando dopo 3 anni di assenza, mi sono ritrovato mai come in precedenza registi e produttori che mi dicevano: ho fatto un film da giornate degli autori, te lo vorrei far vedere. Ho scoperto che è un genere, come ci sono i film da Ken Zen a Cannes, ci sono anche i film da giornate a Venezia. È una bella impressione, perché questo permette a grandi registi, Claude Miller, solo perché riesordisce una seconda volta a fianco di suo figlio, Goran Paskalievich, il regista della Polveriera, che ci torna con un film che si chiama Luna di Miele, Merza Kalouach, che è una roba che sembra tutta per cinefili, ma è il più grande regista algerino e per 2 anni di fila fu campione del box office in Francia, che dice: sì, ho fatto un film sugli immigrati clandestini, ma guarda, questo è proprio un film da giornate. Beh, questo tipo di apertura verso il cinema in grande non può che inorgoglire. Noi ci abbiamo aggiunto appunto la voglia di trasgressione, del flirt con i generi. Per il resto, il film da giornate va un po' preservato e tutelato, perché se questa sezione ha un senso è nel far incontrare gli autori italiani e stranieri, sì, da un lato, sì, la villa, sì, degli autori serve a questo, e dall'altro ad aiutare a scoprire e valorizzare cineasti e film che altrimenti magari nel grande frastuono della mostra, quella grande, rischierebbero di essere un po' azzittiti o fatalmente anche non scelti. Quali ti sembrano le filmografie, le nazioni che esprimono filmografie più dinamiche in questo momento, a quanto hai potuto vedere? Dunque, qui abbiamo fatto giochi diversi, direi un gioco di squadra col direttore della mostra. Noi abbiamo scommesso sull'Europa, in sì, parte anche direi la settimana della critica, e forse all'interno dell'Europa c'è una grandissima vitalità delle cinematografie scandinave, non c'è dubbio, Svezia in testa. E tutti guardano con molta curiosità e attenzione al mondo balcanico, fermo restando che poi i francesi coproducono con tutto il mondo, quindi se poi uno dice qual è la più vitale, finisce sempre a dire Francia, perché una volta lo fanno con i mongoli, una volta lo fanno con gli africani, una volta lo fanno con i polacchi, una volta lo fanno con i sudamericani. Lo zampino ce lo mettono sempre, insomma. Invece Marco Müller dall'altra parte ha fatto 2 scommesse secondo me molto interessanti, una necessaria direi: l'India è un tale continente cinematografico che trascurarla, certo, è stato grave, se ne era ricordato soltanto il Festival di Locarno qualche anno fa, e poi una particolarmente nuova che anch'io seguo con curiosità, cioè l'Egitto come paese del Medio Oriente, che ha la più antica tradizione di industria cinematografica e che sembrerebbe, a vedere le scelte di Marco, tornato proprio agli onori della cronaca. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Bene, Giorgio, in bocca al lupo e a risentirci per prossimamente, chissà. E ricordate che le porte della Villa degli Autori per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa sono sempre e costantemente aperte. Oh, bene, bene. Ti abbraccio e a presto. A presto, arrivederci. Ciao. Giorgio Cosetti, delegato generale da 6ª edizione delle Giornate degli Autori al Lido di Venezia dal 3 al 12 settembre, con lui chiudiamo, sono le 15:10, l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15 sugli 87.900 e modulazione di frequenza. Tutte le informazioni comunque riguardo alla trasmissione potete trovarle sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info. Buon proseguimento.